questo grido in Argentina, lo senti o no, nei rancio sotto di. Ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu. È il richiamo che trascina l'ardente cuor del gaucho sognatore. Se qualche bruna passar vedrà, con il suo grido a sé la chiamerà. Sarà la luna, sarà l'amor, ma quel richiamo resister non saprà. Yeah.